Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere così numerosi a questa serata organizzata dalla Biblioteca Provinciale Claudio Augusta di Bolzano. È da qualche mese che ci siamo dati questo nuovo ruolo di biblioteca migrante che gira per i quartieri, soprattutto in particolare viene ospitata dal Centro Trevi e dal Teatro Cristallo, che questa sera ringrazio l'Associazione Cristallo che ci mette a disposizione occasionalmente questa sala. Diciamo che la biblioteca ha come scopo quello di mettere a disposizione i libri, dei documenti, delle opinioni, dei pensieri, e quindi la sede naturale sarebbe chiaramente la biblioteca. Ma visto che siamo in una situazione provvisoria e siamo in attesa del polo bibliotecario, ci muoviamo e questa cosa ci fa anche piacere, perché alla fine abbiamo visto che, nonostante l'inizio un po' stentorio di quando uscivamo dalla nostra sede, in questi ultimi mesi abbiamo visto che le iniziative attecchiscono anche in altre parti della città e comunque i nostri utenti ci seguono, e questo ci fa molto piacere. E la biblioteca non smette nel suo entusiasmo di proporre degli incontri con autori e autrici, e sono molto contenta questa sera di avere con noi Fabio Bonafè, che è già stato ospite della nostra biblioteca, perché non è il primo libro che scrive, e lo ringrazio di aver pensato alla Biblioteca Claudio Augusta per la presentazione. Lo accompagneranno in questa presentazione il teologo Don Paolo Renner, che è qui con noi, e il giornalista di un quotidiano locale, il suo Adige, Fabio Zamboni. Ecco, la nostra missione è questa, quella di creare sempre delle occasioni nuove per così incuriosire le persone, invogliare le persone a leggere, a scoprire dei nuovi percorsi, con l'aiuto degli autori, con l'aiuto dei moderatori e di tante altre persone che si mettono a disposizione per così incuriosirci. Ecco, la curiosità forse è la cosa più importante da mantenere sempre viva con noi. Vi ringrazio che ci date una mano per questa cosa, e una buona serata a tutti quanti. Bene, buonasera a tutti anche da parte mia. E già Valeria ha fatto le presentazioni, quindi cerchiamo di stringere i tempi, visto che abbiamo avuto anche il nostro quarto d'ora accademico. E qui a presentare questo libro ci sono Don Paolo Renner, che non ha bisogno di presentazioni, è il nostro teologo professionista in questo caso, su un tema che, vista la presenza numerosa, sembra di notevole interesse. E poi c'è il nostro autore di questa sera, che è Fabio Bonafè, che ha avuto una lunga esperienza come insegnante nelle scuole di lingua tedesca soprattutto, ma anche all'estero, in Cecchia e in Austria, giusto? E che ultimamente ha scoperto appunto la passione per la scrittura, prima con un libro di racconti e ora con questo, che gli chiederemo come possiamo definirlo. E io sono qui sicuramente non come esperto di teologia né di religione, perché ho un'esperienza da chierichetto quando ero piccolo con i trombasti, e quindi mi limiterò al ruolo di moderatore e di eventualmente di provocatore. Nel ruolo di moderatore farei subito due domande secche all'autore, che ci spiega prima di tutto che cos'è il rabbi molesto. Rabbi, intanto, immagino sappiate che è una parola che la storia per secoli ha indicato il ruolo del maestro, del profeta, e da qui immagino discenda anche la parola da rabbino, no? O no? Perché non sono, giusto? E quindi un titolo, già il libro dal titolo suscita interesse, perché sicuramente è provocatorio, e sottotitolo anche qui perché è sull'atto antipatico di Gesù. Quindi chiederei a Fabio Bonafè che cos'è, un libro di teologia, è una storia alternativa del personaggio Gesù, cos'altro è, e poi qual è stata la scintilla che ha portato a scrivere un libro, una ennesima rilettura, perché è da 2000 anni che l'esegesi dei Vangeli prosegue con composizioni chiaramente diverse, che cosa l'ha portato, è stato un lungo percorso, e quindi questa è la sintesi di questo percorso, o a un certo punto il suo rapporto personale con la religione è approdato a questa critica che lui fa al personaggio di Gesù? Ok, tanto le parole hanno sempre una loro evoluzione. Da quello che mi risulta, rabbi pare che sia stato usato non direttamente nel tempo di Gesù, ma che sia soprattutto dopo la distruzione del Tempio. Ma qui abbiamo il teologo e potrebbe dirci molte cose ottime, diciamo. Quindi è leggermente anacronistico, cioè Gesù vive nei primi 30-40 anni dell'era volgare cosiddetta, la distruzione del Tempio è del 70, quindi è una parola che è entrata in vigore un po' più tardi rispetto a Gesù. Altra questione, pare che Rabbi voglia dire grande. Chi di voi conosce la storia del Mahatma Gandhi sa che Mahatma vuol dire grande anima. Dunque grande sarebbe come dire, reverendo, era un'espressione che si utilizzava verso le persone che si pensava cariche di un prestigio, di un carisma, eccetera. Gesù, Yeshua, Galileo, quindi Gesù probabilmente, Gesù, era una persona che impressionava. Cavolo, arriva qui, c'è un bambino che sta su un lettino, è morto, gli dice alzati, e quello si alza. Signori, non è proprio una cosetta da niente, è una cosa importante. Quindi faceva veramente impressione. Rabbi allora vuol dire maestro, in un certo senso. Se uno va su internet e clicca Rabbi, vengono fuori tutte le indicazioni turistiche della Val di Rabbi. È una cosa incredibile, perché è una parola, diciamo così, ancora un po' poco gettonata su internet. Molesto è, tanto c'è un romanzo di una scrittrice abbastanza importante, Elena Ferrante, che ha scritto L'amore molesto. Ci sono molte cose che sono moleste, in particolare c'è una parabola nella quale si racconta di un amico che ha da ospitare delle persone, di notte si alza e va a chiedere a un suo amico se per favore gli dà del pane, perché lui è rimasto senza. E dunque questo è insistente, diciamo che è anche un po' rompiscatole di notte, e c'è un commentatore che dice: beh, questo è un amico piuttosto molesto. Allora, attenzione, la parola molesto può essere anche una parola che sì, disturba, però certe volte una persona molesta è anche molto utile. Certe volte una persona che ci rompe un po' le scatole, rompe gli schemi, Credo che ci sia un libro scritto per una casa editrice molto cattolica, Il Grande Rompi, è un libro molto apologetico nei confronti di Gesù, per dimostrare che Gesù è un rompiscatole, ma nel senso buono. La mia non è una definizione unica, ognuno di voi legge il libro, apro una parentesi, la lettura di un libro è un'esperienza, quindi questa sera noi facciamo una chiacchierata, possiamo fare una sintesi del libro, ma non sostituisce la lettura del libro, perché uno va a scuola e dice: ho letto 20 pagine su Hegel, un grande filosofo, non ha capito niente magari. Se avesse letto i 20 libri di Hegel, forse qualcosa che capirebbe, diciamo. Purtroppo la scuola stringe, ok? E molto spesso si fa così anche col Vangelo. Si stringe, si mettono delle frasi, delle letture nel corso degli anni, magari non si legge tutto, si legge pezzettini. Provate a leggere il Vangelo di Marco tutto intero, è un'esperienza, fatelo. Allora, un libro va letto, sottotitolo. Per parlare di sottotitolo devo far vedere questa cosa, che è una conchiglia. L'orca la chiamerebbe una caracola, una conchiglia. Bene, io credo nel Dio che fa le cose meravigliose. Guarda, io non sarei capace di farlo, adesso con tridimensionale si fanno le cose magari, è vero, però questa, che pur non è perfetta, è meravigliosa. Io credo che c'è un Dio della bellezza. Questo Dio della bellezza non ha bisogno di dimostrazioni. Uscite fuori adesso, magari passate davanti a un calicanto, non ve ne accorgete, c'è un profumo, cavolo, forse a gennaio ancora di più sulle passeggiate, no? Questo è un Dio della bellezza. Seconda cosa, l'animaletto che abitava qui non c'è più. Oh, porco cane, dove è andato? È morto l'animaletto. Dunque c'è un Dio della bellezza che si confronta con qualcosa che è caduco, che è transitorio, che forse è doloroso, che è una mancanza. Ok? Fine della prima parte. Sempre questa cosa è meravigliosa, perché ci sono degli animaletti che qualcuno di voi avrà visto al mare, che si chiamano i paguri. I paguri vanno in giro a cercare queste robe qui vuote, e siccome sono hanno l'addome molle, se arriva un granchio se li pappa subito, allora nascondono l'addome qui dentro e si nascondono perché sono timidi. Però anche i paguri crescono. Ed ecco che c'è un problema, cioè a un certo punto questa conchiglia non basta più. C'è un elemento evolutivo, bisogna crescere, bisogna cambiare conchiglia. E io credo che questo sia molto importante per noi tutti. Non crescono soltanto gli uomini e le persone. C'è un libro ultimamente edito, credo, dalle Paoline, dove il titolo è Gesù impara. Sì, cavolo. Se voi leggete la storia di Gesù, non nel solito modo a pezzettini che non serve un granché, ma leggetela. È una storia bellissima. Gesù mette a fuoco qualcosa di sé. Ed ecco allora l'altra questione. Gesù è cresciuto, forse anche Dio è cresciuto. Attention, please. Dio è cresciuto. C'erano degli dei tremendi nella zona del Libano di oggi, poveretta, il mitico Baal. E lì la gente era preoccupatissima, se le cose non andavano prendevano 300 ragazzi, 200 maschi e 100 ragazze che servono di più magari per salvarle e poi li uccidono perché le cose vadano bene. Allora quel Dio lì è cambiato, non è tanto utile quel Dio lì. Allora che cosa vuol dire? Gli uomini si sviluppano, cambiano, la loro cultura cresce e anche l'immagine di Dio o la rivelazione di Dio cresce, cambia. Ok? Dunque c'è un elemento evolutivo in noi. Ecco perché è molto importante dire a Gesù: scusa un momento, tu hai detto l'altro giorno, hai detto i miti erediteranno la terra e oggi dici che i violenti prenderanno il regno. Spiegati un po' meglio. Purtroppo gli apostoli ogni tanto sembravano dei tonti, non facevano mai domande. Ecco perché allora è importante ricordare il primo comandamento. C'è uno scriba, un fariseo, una persona per bene, che a un certo punto chiede a Gesù: qual è il primo comandamento? E Gesù gli risponde con due citazioni, una dal Deuteronomio e l'altra dal Levitico. La prima citazione è: tu non avrai altro Dio fuori di me, amerai il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Allora scusatemi un momento, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua intelligenza vuol dire anche che ci mettiamo dentro la nostra sensibilità, è vero? Ci mettiamo dentro anche la nostra intelligenza. Se io devo amare Dio, cosa faccio? Mi stacco un pezzo di cervello? Eh no, lo uso. Dunque amo Dio con tutta la mia sensibilità, che vuol dire anche il mio dovere, non diritto, il mio dovere di approvare o di disapprovare. Ok? E questa è la premessa per amare veramente Dio. L'altra citazione riguarda l'amore del prossimo. Quindi bisogna avere anche molto rispetto, molto rispetto. C'era qui l'operatore di TV BZ33, qualche cosa del genere, mi ha fatto un'intervistina e la redazione gli aveva messo una domanda ad hoc e gli dice: ma se lei parla di Gesù come antipatico, vuol dire questo che forse la religione cristiana, la società occidentale è più tollerante di una società dove se lei dicesse una cosa a proposito di un famoso profeta le taglierebbero la gola? E io credo che qui sia importantissimo avere un senso di rispetto. Per cui voglio tranquillizzare tutti. Tutti devono essere tranquilli. Non è un problema se uno dice Gesù mi sta antipatico su quella cosa. Uno può dire benissimo: no, a me sta antipatico perché ha fatto il miracolo di Cana e il vino trentino, insomma, non lo so, ne risente, una concorrenza sleale. Ognuno ha i suoi punti di vista. Risposta creativa, penso. Coinvolgerei adesso Lorella chiedendogli qual è stata la sua prima reazione alla vista del titolo e la seconda reazione invece alla lettura di questo libro. Sì, la prima reazione non è stata affatto positiva. Io parlo molto positivamente di Gesù, che definisco uno dei personaggi più coerenti che io conosca nella storia dell'umanità, perché quello che pensava diceva, quello che diceva faceva, quindi con una trasparenza e una linearità molto forte. Poi leggendolo meglio ho ripensato al titolo, inizia con delle versioni, delle letture un po' critiche e così via, in parte non del tutto giustificata esegeticamente, ma con una conoscenza dei Vangeli, della letteratura di contorno molto superiore alla media, devo dire. Poi leggendolo e arrivando verso alcune conclusioni, mi sono reso conto che il libro andrebbe letto dalla fine, perché nelle ultime pagine si scopre un grande amore per Gesù, un grande affetto per Gesù, scoperto anche nella sua dimensione un po' più ombrosa, che in certi casi è giustificatissima. Tu arrivi in casa di Giairo, no? E dici: la fanciulla non è morta ma dorme, tutti ti deridono. È chiaro che li cacci fuori, perché c'è un momento tragico, è un momento di grande raccoglimento, quindi non mi stupisco che li abbia cacciati fuori, non è che fosse lui sempre brusco, sempre negativo. E poi, ripensando, perché il titolo è ben posto, sul lato antipatico di Gesù, verso la fine del libro Fabio dice senza nulla togliere la grandezza e la simpatia di Gesù, quindi è un grande, è inequivocabile questo, no? È tendenzialmente simpatico, direi addirittura empatico, è uno che sa entrare in sintonia con le persone, Gesù, sa ascoltare, ed è vero che i discepoli fanno poche domande, però Gesù fa tantissime domande, e qui c'è un punto dove mi trovo in conflitto con Fabio, quando dice che Gesù non aveva molto il senso della coscienza né propria né soprattutto degli altri. Questo non è vero, perché Gesù ha il coraggio di dire: io, è stato scritto, ma io vi dico, questo dicono i vostri maestri, ma io vi dico, sulla cattedra di Mosè si sono seduti scribi e farisei che legano pesanti fardelli e li impongono agli altri. Gesù ha fatto più domande di quanto non abbia dato risposte. La mia studentessa a Trento anni fa ha fatto una tesi sulle domande di Gesù nella prima parte del Vangelo di Marco, nella prima metà, 34 domande. Gesù è venuto a inquietarci, quindi è stato molesto, ci ha molestati e continua a molestarci, alla Dostoevsky, il grande inquisitore, dove questo inquisitore dice: perché sei venuto a disturbarci? Recentemente abbiamo sentito quel autonominato intellettuale cattolico che è Vittorio Messori dire al Papa attuale che turba il cattolico medio, e Leonardo Boff gli ha risposto: no, turba il cattolico mediocre, non il cattolico medio. Gesù turba ancora oggi i cattolici mediocri, ma turba tutti i mediocri, perché è stato un tipo a tinte forti che quindi non può risultare simpatico o solamente simpatico. Diceva Don Mazzolari: chi l'ha detto che il prete debba essere simpatico? Se siamo discepoli di Gesù, che sapeva anche essere antipatico, possiamo prenderci il lusso di essere antipatici anche noi, di dire le cose che pensiamo e così via. E secondo me Gesù ha avuto il coraggio di affermare la propria coscienza e ha stimolato altri a prendere coscienza della propria coscienza davanti al cieco nato. Cosa vuoi che io ti faccia? E doveva essere contento che non fosse un cieco napoletano, perché avrebbe detto: ma questi scemo, io sono cieco e tu mi chiedi che voglio da te, ma si proprio rincoglionito, insomma, si fa un Galileo, no? E invece Gesù chiede, domanda: cosa vuoi che ti faccia? Perché sei venuto? Volete venire dietro di me? Vieni e vedi. Volete andarvene? Prego, la porta è aperta, vi lascio liberi. Non minacciava, dava delle definizioni chiare. Secondo me ogni tanto mette in evidenza quell'aspetto escatologico: chi crederà sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Però il credere per Gesù è più un praticare che un credere astratto a contenuti religiosi, perché poi quando si arriva al dunque, Matteo 25:31 che citi, il giudizio universale, il giudizio finale sarà impostato sulla prassi, non sulla teoria, perché non chi dice Signore, Signore, non chi scalda i banchi in chiesa e mangia particole avrà un posto privilegiato nel Regno dei Cieli. I violenti cercano di impadronirsi, ma sarà dei miti di coloro che hanno praticato la giustizia: ero nudo, ero affamato, ero in carcere, ero forestiero. E questi sono dei doveri etici che riguardano credenti e non credenti. Qui Gesù molesta anche i non credenti, perché tu hai il diritto di essere non credente, ma non hai il diritto di essere non umano, e Gesù ci vuole profondamente umani, e per questo ci inquieta e ci molesta. E un secondo aspetto, alla fine il libro mi è piaciuto molto, ho iniziato a leggerlo con un senso di fastidio, e in me si è destata l'ombra del Torquemada, no? Il grande inquisitore diceva: come, ma no, ma poi ho visto tanti tasselli di un mosaico mettersi in un certo ordine, far scoprire più a fondo la figura umana di Gesù, io faccio un corso di cristologia fondamentale, cioè Gesù liberato dal dogma, no? Gesù storico, diciamo, Gesù storico, per quanto possibile ricostruirlo. Dico, dimentichiamo Gesù figlio di Dio, seconda persona della Trinità, Salvatore, e torniamo al vissuto di Gesù, che è molto importante, perché noi non possiamo diventare Dio come Gesù, ma possiamo diventare uomini come Gesù. Anni fa a Natale la Caritas ha diffuso quel messaggio: Macht wie Gott werdet Mensch. Fate come Dio, diventate umani. E Gesù ci insegna a essere umani, no? E quindi è un aspetto molto importante. Un altro aspetto che vedrei di contestazione a quello che Fabio afferma, dove lui dice che Gesù non sembra vivere la lentezza che viene richiesta dall'amicizia e dall'amore. Qui non sono d'accordo. Gesù si prende il tempo, sono gli altri che non glielo lasciano. Lui si ritira a meditare di notte, si ritira in preghiera. Ai discepoli, proprio in Marco 3,10, dice: venite in disparte, in un luogo solitario, riposatevi un poco. Li vede stressati, dice: venite, stacchiamo la spina, andiamo, prendete il largo, andiamo lontani dalla folla. Ma è la folla che gli corre appresso, non è lui che si... E Gesù passava spesso il weekend a Betania, da Marta e Maria, perché Marta cucinava da Dio, Maria era brava a ascoltare, Lazzaro ogni tanto moriva però lo risuscitava, era il suo weekend. Gesù si prendeva il tempo di fare weekend, perché? Perché il Padre, il Creatore, il settimo giorno si riposò, portata a termine la creazione, si riposò. E in sostanza direi che il primo metacomandamento, il metacomandamento che sta all'origine di tutto è quello dello Shema. Shema Israele, ascolta Israele, ascolta, guarda, sii attento, prima di parlare cerca di capire, no? E io ho fatto di nuovo questo percorso dello Shema leggendo il tuo libro, no? Sono partito, sono stato disturbato da alcune affermazioni, poi ho trovato il senso in cui andavano lette e alla fine ho trovato delle espressioni molto molto interessanti che semmai vi dirò in una seconda tornata. Benissimo. Volevo prendere un diritto di replica, ovviamente. Sì. Quando dico che Gesù non ha il senso della lentezza, ovviamente mi riferisco al personaggio di Gesù. Nessuno di noi conosce Gesù se non attraverso i Vangeli. I Vangeli ce lo propongono come persona di una narrazione. E indubbiamente la narrazione di Marco, che è il protovangelo, il Vangelo forse più nervoso, più veloce, eccetera, ci offre qualcosa di diverso rispetto ad altri Vangeli, per esempio quello di Giovanni, che è un Vangelo molto costruito teologicamente, eccetera. Allora io invito tutti a leggere, perché se c'è un momento nel quale io dico nel libro Gesù non ha il senso della lentezza, io mi riferisco al Gesù che incontriamo nel Vangelo. E faccio un esempio, vi porto un esempio, che è l'esempio dell'incontro con il giovane ricco, vi ricordate? C'è un giovane ricco che va e dice: maestro, come faccio ad avere la vita eterna? E Gesù gli dà una risposta in prima battuta: osserva tutti i comandamenti, no? E qui dobbiamo sempre ricordare che Gesù si muove in un mondo pieno di maestri, pieno di discussioni. Per questo voglio dire, guardate, per alcuni Gesù è un fatto archiviato, non se ne parla più, finito, ok? Purtroppo è tragica questa cosa, invece Gesù è una grande ricchezza. Come dire, leggendo questo libro uno dice: ah, cavolo, questo Gesù antipatico, no? Non ne voglio più sapere. No, momento, tietelo, perché non abbiamo ancora finito di scoprirlo. Questo è il problema. C'è moltissimo da guardare. Allora, ritorno al giovane ricco. Dice: osserva i comandamenti. E allora dice il giovane ricco: ma insomma, da quando sono bambino, faceva la comunione il chierichetto, che gli osservo. Allora Gesù lo guarda e dice il Vangelo che lo amò, sentì un affetto per questa persona, no? E gli disse: ma allora, se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e seguimi. Dice questo. E questo giovane ricco si rabbuia un momento. E cavolo, sai, vendere tutto, magari, insomma, così su due piedi, no? Non è così facile, non è così facile. E si allontanò, è vero? Allora io dico, e qui entro nel metodo della mia narrazione, perché io rinarro in parte i Vangeli, per esempio spero di leggere con voi l'inizio del libro, rinarro i Vangeli e dico: ma insomma, chiunque di voi se ama una persona, lo guardò, lo amò, e questo dice, oh, beh, scusa, ne parliamo un'altra volta, se ne va via, sarebbe venuto quasi spontaneo di dire, ma scusa un momento, ti voglio spiegare due cose. E questo sarebbe stato utile anche per noi, anche per noi cristianuzzi o semi-cristianuzzi o post-cristianuzzi, perché avremmo capito la differenza tra il regno e la perfezione. Grazie, spiegamelo. Sarebbe stato molto utile. Quanti cristiani sarebbero disposti ad oggi e domani a vendere tutto e darlo ai poveri? Lo fanno certe sette. Noi diciamo sono fuori da testa, capite? Ora invece Gesù ha questo aspetto radicale. E qui vi voglio dire, state molto attenti, perché noi abbiamo una dimensione religiosa molto assopita, più o meno, assopita, diluita in una serie di altre cose. C'è gente che ama molto più la Juventus che Gesù, ci avranno tutti i suoi diritti, Allora Gesù, per un certo aspetto, state attenti, per quel tipo di forza religiosa che aveva, assomiglia molto più a certe persone che noi definiremmo fanatiche oggi. E questo è un problema di percezione, di sensibilità, e va giocata. Io non sopporto certi preti che danno tutto per scontato. E San Giuseppe, tra un po' arriva la festa di San Giuseppe, allora San Giuseppe c'ha di solito in mano il lilium, il giglio, e di solito guarda un po' di là, perché tutti i santi guardano in alto verso sinistra. Una cavolata spaventosa, una cavolata, c'è un'omogenizzazione di immagini. Guardate che anche le immagini servono, sono importanti. Ecco perché va letto il Vangelo, ma prima di tutto, secondo me, va letto, come diceva il teologo qui vicino, va letto umanamente. Se non entra in gioco l'umano, tutta l'altra sovrastruttura religiosa è una cavolata. L'Italia è un paese ultra religioso, ma leggermente disumano in certi momenti. E cavolo, il capo mafioso che c'ha la Bibbia e magari Padre Pio vicino al comodino, ma che razza di religione c'ha quel? La Bibbia no, Padre Pio. Beh, la Bibbia la tengono ogni tanto i più volti. Ah, mi è piaciuto molto. Adesso in questo aspetto c'è una piccola contraddizione quando leggerete il libro, perché da una parte dice, perché Gesù non ha un pochettino cercato di continuare il dialogo col giovane ricco, che non era un giovane, in Marco 10, 17, non era un giovane, quello è Matteo il giovane, si dice un uomo, no? Che dalla sua giovinezza, così. Ma da una parte dice, perché non l'ha un po' sollecitato a continuare il discorso? Dall'altra parte, quando citi Luca, la parabola del figliol prodigo, ovvero del padre misericordioso, che sono due prospettive molto interessanti, così come vederla, dice, vedete la grandezza di questo padre che lascia andare suo figlio a fare le sue esperienze, ma è pronto a riaccoglierlo quando si presenterà. Bisogna avere la libertà di lasciare libertà alle persone di fare le loro scelte. Quindi Gesù non l'ha. Ricordo al teologo che esiste anche un concetto greco che si chiama il kairos. Sì. Il kairos. Ci sono delle occasioni, si presentano in quel momento, scappano, non ci sono più. E soprattutto dopo, caro Gesù, non mi venire a dire, scusate, perché ci facciamo anche un po' di pugni con Gesù, non mi venire a dire, sarà più difficile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago, che poi, descrizione metaforica, la cruna di un ago, interpretazioni, che un ricco entri nel regno dei cieli. Vuol dire, cristiani, fregati, fregati. Perché il mondo cristiano è un mondo straricco rispetto a... va bene, poi il cimitero della zona dei poveri di spirito. Comunque, state molto attenti, perché questa parola vi frega. Tant'è vero che nel Medioevo la prendevano così seriamente che sganciavano soldi quando morivano ai vari monasteri e mettevano le figlie dentro a fare le principesse dei monasteri. Allora, molto importante, ringrazio Don Paolo per aver detto una cosa molto utile, è vero, aspettate di leggere fino in fondo il libro, perché al capitolo 10 io vi dico delle cose, ne dico una, e dico che bisogna adottare Gesù, adottarlo. Certo è molto facile che lui adotti noi, siamo già stati adottati, siamo nati qua, però adottare Gesù significa introdurlo nella nostra dimensione culturale, cosa che è stata fatta sempre, subito. Subito l'hanno dovuta fare, già con San Paolo hanno dovuto discutere, perché Gesù non aveva risolto tutti i problemi, non aveva detto mangiate anche il maiale che vi fa bene e alla padania pure, cioè non hanno affrontato tutte queste cose, hanno dovuto affrontarle dopo. Quindi c'è stata un'adozione, che vuol dire hanno dovuto macinare. Ma chi è che legge un libro senza macinarlo? Uno scemotto della seconda media, che non ha capito niente. E invece un libro va macinato, e ogni tanto bisognerebbe anche in chiesa alzare la mano. Scusi, signor parroco, cosa ha detto? Purtroppo non è molto democratica la struttura della messa, comunque, no, scherzo. E un'altra cosa, perché uno prende il libro, a parte il fatto che dopo lì il libro c'è con un piccolo sconto, lo trovate anche su internet, eccetera, però uno prende un libro, lo legge, adesso hanno scoperto che comprano molti libri, sapete quelli da 800 pagine, e si fermano dopo le prime 200, lo comprano, ma 800 pagine, come si fa a leggere? Neanche la Bibbia. Allora, un libro va letto, poi voi lo potete lasciare, lo riprendete, lo regalate al nipote, eccetera. Però ricordatevi che questo libro è fatto in tre parti, due che sono questa narrazione argomentativa, la terza parte è una parte, diciamo così, di citazioni, di personaggi. Se voi leggete il primo capitolo, io consiglio, andatevi a leggere le note del primo capitolo, che non sono esattamente note. Però io per esempio chiedo scusa e dico, quando uno si occupa di Gesù, uno che vuole occuparsi di Gesù, fa la figura di un'acciuga che vuole mangiare una balena, perché Gesù è enorme, gigantesco. Anche Gesù sarebbe quasi imbarazzato a dire qualche cosa dopo 2000 anni di biblioteche ripiene di libri. Aveva una testa mostruosa, capite? Per cui si dicono cavolate. L'ultimo, giorni fa, ho trovato un libro bellissimo, David Flussa, che spiega le radici ebraiche del cristianesimo. Ebbene, nell'edizione che c'è un'illustrazione. Chiunque di voi sia andato a San Procolo di Naturno avrà visto gli affreschi. C'è un signore che sembra che faccia l'altalena. Interpretazioni, qualcuno dice che è San Paolo che scende dalle mura di Damasco. In realtà, in questo libro veniva rappresentato come una miniatura del XIII secolo. Si possono dire cavolate pur stampandole, capite? E ci sono delle cose bellissime da cercare. Quindi se qualcuno di voi leggerà il libro, dia un'occhiata anche alla terza parte, perché è abbastanza importante. Okay. Sì. E ha detto una cosa importante, secondo me, ne ha dette parecchie importanti, devo rendere, ma una mi ha fatto riflettere, da lettore chiaramente, non sono attrezzato come lei, però una cosa ho capito di questo libro, e lei me l'ha confermato, che dopo una prima impressione negativa data dal, chiaramente di diffidenza data dall'impatto con il titolo e poi con l'elenco di difetti che vengono elencati di Gesù, viene fuori, andando avanti, soprattutto nella parte finale, l'impressione che questi difetti, questi passaggi critici siano messi sul tavolo però per poterli superare, per dare una chiave di lettura che possa servire a superarli, cioè è così, ma non per giustificarli, ma per ragionare insieme, mettere sul campo dei dubbi che poi... I difetti che Fabio Bonafè cita in questo, per dargli un'estrema sintesi a chi non il libro non ha ancora letto, sono Gesù sarebbe brusco, e adesso con una lettura che Mara Daroit ci proporrà. No, la lettura di Mara è una lettura soltanto di introduzione. Sì, nel momento in cui si rivela brusco, però c'è anche quello, no? No, non esattamente, comunque te lo magari spiego. Sì. Va bene. Brusco, impaziente, e poi capirete perché una lettura è appunto dedicata a questo episodio, quello del fico che viene tagliato, severo, scandaloso, collerico, narcisista, antipatico, che è più, per esempio, sulla figura proposta di Cristo Re, no? Mi pare che sia antipatica questa idea. E autoritario, questo è l'elenco dei difetti. Allora, quale scegliamo per fare questa prima lettura? Intanto posso elencare con molta precisione le cose che dico a proposito di Gesù, però vorrei anche spiegarvi questo. Allora, io mi siedo a chiacchierare con un amico su una panchina, ok? Lì vicino alla Rai magari, no? Questo mio amico si alza come me, mi si gira e dice ciao Fabio, e si è appena andasene via, e io dico oh Antonio, guarda che c'hai una patacca bianca sui pantaloni blu, una cacca di piccione micidiale, no? Bolzano piena di piccione. Scusate, posso dirgli questa cosa al mio amico? Sì, certo, perché si pulisce i pantaloni, ok? Vi immaginate questo mio amico che si gira e mi dice Fabio, guarda prima la trave che hai nel tuo occhio. Immaginate un amico, io dico, scusa, permetti un momento, quella è una vera cacca, non è una cosa sacra, no? Allora, cosa succede? Noi tante volte sacralizziamo anche le cavolate. C'era il mio professore, uno dei professori di filosofia teoretica a Bologna, che apparteneva ad uno speciale orientamento cristiano, e cioè lui metteva in dubbio che Gesù andasse al gabinetto. Allora, per farlo perfetto, lo faceva diventare un uomo indicapato, senza intestino. Era un filosofo, senza intestino. Filosofia teoretica, non teologia. No, filosofia teoretica, grazie. Sì, ma non teologia. Gravissimi. Allora, io adesso spiegherei una cosa. C'era la prima lettura, che salterei volentieri a questo punto, perché mi pare che abbiamo fatto già un'introduzione, ma la prima lettura ve la sintetizzo. Io comincio raccontando un episodio bellissimo del Vangelo di San Marco, che forse qualcuno di voi ogni tanto si ricorda. Ma il vero problema dei Vangeli è che li abbiamo sentiti fin da bambini, li abbiamo come una registrazione, sapete, nelle scuole coraniche, dove studiano a memoria tutto il Corano, ma finisce che non lo capiscono e non lo digeriscono anche tante volte. Così facciamo anche noi da buoni credenti, lo sentiamo leggere e diventiamo, scusate, un po' ottusi, perché ascoltare una cosa e ragionarci non è semplicemente registrarla. E c'è un episodio molto carino dove arriva tanta gente, sanno che c'è Gesù dentro in una casa, allora arrivano delle persone con un ammalato in una barella, cavolo, non si può entrare dentro, c'è tutti questi che pesa, salgono sul tetto, vi ricordate questa storia? Salgono sul tetto, fanno un buco, un buco, e cavano la barella lì dentro. Allora, scusate un momento, giusto per essere normali, magari voi tutti siete appassionati a grandi pellegrinaggi, andate a Medjugorje 10 volte all'anno, eccetera, però questa è una scena molto fisica, molto fisica. Io vado a trovare il Papa e gli buco il tetto di San Pietro, e no, un momento. Allora, lì c'è una scena molto bella, e io dico che il Vangelo in questo caso è una narrazione stupenda, c'è una vivacità dentro, c'è una forza, e dobbiamo coglierla. Ma questi qui bucano il tetto, dico, un polverone sulla testa di Gesù, su tutti gli altri 12 apostoli riuniti prima che arrivi lo Spirito Santo, cioè è una scena comica, pensateci un momento. E poi Gesù fa quella scena che è bellissima, ma quella non ve la racconto, così vi andate a leggere il Vangelo. Mara invece, che è qua venuta apposta, ci leggerà la seconda lettura per dirvi che noi a volte facciamo di Gesù un piccolo idolo familiare da tenere lì, capite? Non quella forza stupenda che c'è. Mara ci leggerà una lettura che viene da un testo apocrifo, ma io non mi occupo degli apocrifi perché sono fuori regola, cito soltanto un libro apocrifo, ma nella Bibbia cattolica e ortodossa, che è il libro di Tobia, una bellissima storia che io amo moltissimo. Non mi occupo degli apocrifi perché intanto, come dire, noi non li leggiamo, sono soltanto certi studiosi che li leggono, però questo è molto interessante. Sì. Dopo di ciò camminava attraverso il villaggio. Scusa, fammi vedere, leggi anche il titolo. Un ragazzo sbadato. Dopo di ciò camminava attraverso il villaggio, quando un ragazzo correndo andò a urtare contro la sua spalla. Gesù, irritato, gli disse: «Non percorrerai tutta la tua strada». E subito cadde morto. Ma alcuni, vedendo ciò che accadeva, dissero: «Dov'è nato questo ragazzo che ogni sua parola è un fatto compiuto?». I genitori del morto, andati da Giuseppe, lo biasimavano dicendo: «Tu che hai un tale ragazzo, non puoi abitare nel villaggio con noi, oppure insegnagli a benedire e non a maledire. Egli infatti fa morire i nostri ragazzi». Giuseppe, chiamato in disparte il ragazzo, lo ammoniva dicendo: «Perché fai tali cose? Costoro ne soffrono, ci odiano e ci perseguitano». Gesù gli rispose: «Io so che queste tue parole non sono tue, tuttavia starò zitto per amor tuo, ma quelli porteranno la loro punizione. E subito i suoi accusatori divennero ciechi. Grazie Amara. Allora, perché vi leggo questa cosa? Vi leggo questa cosa perché c'è un problema. Noi viviamo da 2000 anni in una cultura nella quale Gesù è superstar, è meraviglioso, è bravo, ha un volto delicato. Noi abbiamo bisogno di Gesù, noi lo preghiamo: Signore, fai qualcosa, c'ho mio cognato che... Allora, questo è importantissimo. E la cosa però stupefacente è che qualcuno abbia scritto tanti secoli fa un testo elogiativo di Gesù, perché lui ama Gesù, questo signore, è un apocrifo di San Tommaso, no? Di Tommaso, non santo, l'infanzia del signore di Tommaso, no? Allora, ha scritto questo testo raccontando questa storia, ma non se ne è vergognato. Perché ha raccontato questa storia? Cosa ha voluto sottolineare? Ha voluto sottolineare quello che è un elemento tipico del sacro, di Dio, della divinità, cioè il portento, la cosa strabiliante, quello che rompe le regole. Ora guardate che noi siamo sempre pronti a fare del nostro piccolo eroe un meraviglioso personaggio. Dice le bugie, ma no, non importa, no? Allora, è questa cornice culturale nella quale noi siamo immersi che va un attimo relativizzata, discussa. Adesso poi vi farò un altro esempio. Ora, la cosa interessante è che la raccolta di questi Vangeli apocrifi, pubblicati da un laico molto probabilmente, quasi anche non credente, riporta un titolo, e cioè, diceva, un ragazzo sbadato. Signori, noi l'avremmo intitolato un giovane bulletto criminale. Un bullo criminale, per giunta vendicativo. E chi è il bullo? È questo Gesù che va in giro, un suo compagno gli sbatte contro la spalla e lui boom, lo fa stecchino. È il ragazzo sbadato, è quello lo sbadato, è certo. Quindi, mentre l'Evangelo, l'autore di questa raccolta dei Vangeli mette questo titoletto, un ragazzo sbadato, se noi fossimo onesti diremmo piccolo criminale, coperto da suo padre e anche vendicativo, no? Ora, questo vuol dire, adesso vi faccio un altro esempio così ci capiamo benissimo. C'è il nostro vescovo che sta dicendo le preghiere nel Duomo, entra dentro un signore barbuto nel Duomo e stacca tutte le candele e dice basta questa idolatria. Diremmo, oh cavolo, questo viene a disturbare le preghiere del vescovo, no? Cioè, noi abbiamo un atteggiamento, come diciamo, cosa ci fa questo signore? Un comportamento assolutamente poco corretto. Mentre invece quando noi leggiamo la storia di Gesù che entra dentro nel Tempio, non proprio esattamente dentro, rovescia i tavoli dei cambiavalute, quelli che vendevano i piccioni e le colombe, eccetera, noi siamo già strutturati mentalmente per dire... Bravo, è così che bisogna capire. Tant'è vero che anche il Papa Francesco, al quale voglio molto bene, ha richiamato questa cosa in una maniera molto positiva, dicendo ai parroci: oh, scusate, non è che se c'è un funerale dovete far pagare 50 euro, no? Perché altrimenti qui diventa un commercio. Però il nostro atteggiamento rispetto a Gesù è un atteggiamento accondiscendente. Ma immaginatevi il pubblico delle persone normali di allora a Gerusalemme. Questi dicono, oh, cavolo, guarda questo Galileo, testa calda, eh? Allora, facciamo attenzione, abbiamo una cornice, che è la nostra cornice di 2000 anni di cristianesimo, e su questa va fatto una riflessione, una taratura. Ecco perché è importante riconsiderare la figura di Gesù, perché noi siamo oggi in un mondo molto complesso, ricco di tante credenze e non credenze, e conoscerci bene, sapere ciò che abbiamo dentro di noi, che cosa è la nostra struttura culturale, la nostra appartenenza, la nostra identità, è importante per entrare in confronto con gli altri, in rapporto con gli altri, capite? Vorrei intervenire ancora una volta, Dorella, su un aspetto. Hai citato Papa Francesco. Sì. Ecco, su questo, siccome dal libro viene fuori anche l'immagine di un Dio punitivo, su Su questo aspetto Papa Francesco ha fatto fare dei passi avanti nella Chiesa, avvicinando di più la figura di Gesù a, e anche smussando gli angoli di un Dio punitivo con quello che lui ci ha raccontato in questi... Sicuramente Papa Francesco parte da delle immagini molto interessanti, dice la Chiesa deve essere la casa aperta del Padre e ne abbiamo fatto una sorta di dogana dove anziché essere facilitatori della grazia siamo diventati controllori doganali e così via, quindi è molto deciso, una critica della Chiesa. E riguardo a quello che diceva adesso Fabio, io rilevo una interessante esigenza di guardare con forse più empatia al passato, nel senso che in un passaggio del libro dici perché dobbiamo leggere tutto alla luce del passato e così. E direi che questo è un criterio ermeneutico che ci viene proprio dall'ebraismo. L'ebraismo reinterpreta tutto in base a quello che è stato ed è importante conoscere le radici per poter andare avanti. Guai se si stacca la radice, se si taglia il flusso della linfa vitale, no? E quindi mi sembra anche importante leggere Gesù nella chiave che tu hai messo bene in evidenza dello scandalo, no? Cito un passo, pagina 52: chi rivendica lo scandalo di Cristo e se ne fa portavoce appare quasi sempre compiaciuto di questa formula, ma spesso nella pratica sociale si pone dalla parte di chi normalmente si manifesta indignato per ciò che si ritiene faccia scandalo, ignorando proprio che ciò che dovrebbe scandalizzare una coscienza vigile come l'ingiustizia, l'arroganza dei potenti, eccetera. Oggi la Chiesa, la maggioranza della Chiesa, non è più nei paesi ricchi, è in Africa, è in Corea, è in Sud America, dove la gente soffre e così via, e le cose stanno cambiando molto velocemente. E mi piace che nel libro tu sottolinei la grandezza e la fragilità di Gesù, perché effettivamente se noi leggiamo i Vangeli in modo continuativo cercando di ritrovare un certo filo cronologico che non è evidente, a mio parere possiamo scoprire una evoluzione di pensiero di Gesù che parte come bravo ebreo con i suoi occhiali da ebreo, sto per dire paraocchi ma non sarebbe giusto, con i suoi occhiali da ebreo, e piano piano si lascia arricchire da altre visioni. Incontra delle persone, le tratta come un ebreo doveva trattare il pagano, l'impuro e così via, ma piano piano arriva a evolvere un altro punto di vista. Quindi quello che è interessante di Gesù è che è lernfähig, quindi non è solo vero Dio, come dice il dogma cristiano, ma anche vero uomo, e come uomo impara, apprende, e questo lo rende grande perché ascolta. Tu metti bene in rilievo anche il dialogo con la samaritana, che è in Giovanni, non in Marco, perché tu ogni tanto usi solo Marco, no, poi scampi su Luca, devi bisogna allargarsi perché sono quattro visioni diverse di Gesù, e questa visione stereottica o quadrifonica di Gesù è importante per vedere nella sua profondità, no? E hai citato, hai fatto leggere un passo, io leggo molto gli apocrifi con i miei studenti per far vedere perché la Chiesa li ha rifiutati. I testimoni contemporanei di Gesù rifiutano gli apocrifi e poi gli gnostici perché dicono è un'immagine macia di Gesù, un'immagine da Superman che non va bene. Gesù non era così esageratamente prepotente, intransigente, eccetera. Tu citi anche Osho, la Bibbia di Osho, Gesù era un bravo ragazzo, però era un fanatico, peggio di Hitler e così via. Sono affermazioni che sulla bocca di Osho risultano ben poco credibili perché insomma sappiamo il suo percorso personale. La grandezza e la fragilità di Gesù, come le citi tu, mi hanno ricordato un libro che io amo molto di Nikos Kazantzakis, L'ultima tentazione, no? L'ultima tentazione di Cristo. Un Gesù che è combattuto, in certi momenti si sente chiaramente di essere il Messia, in altri si dice, ma che sto a fare? Ma che sono scemo? Io il Messia, no? Io sono il figlio del falegname. È combattuto in se stesso, non è quello che ha una visione chiara, allora se sarebbe Hitler, no? Gesù a volte manifesta dei tentennamenti, ha dei dubbi, e questo ce lo rende molto più vicino, molto più simpatico, no? Citavi bene, il clero a volte ha dato un'immagine distorta di Gesù, no? Quello che sa tutto, può tutto, eccetera, e forse non è stato così. Allora mi piace quel passo dove dici Gesù inevitabilmente simpatico e grande nella sua grandezza e fragilità, che nel colloquio con la samaritana dici sembra che quasi avesse bisogno di una donna per rendersi conto di quanto pensava dentro di sé. Per questo citavo prima Marta e Maria, il weekend trascorso a Betania, il bisogno di un incontro cuore a cuore con le persone, no? Non soltanto testa a testa, perché era una una cultura molto cerebrale, quella dell'ebraismo del suo tempo. Tu citi bene la Hannah Wolf, Gesù la maschilità esemplare, Gesù psicoterapeuta, eccetera. Gesù vive una maschilità esemplare perché rifiuta il ruolo di padre padrone, di uomo padrone. Lui si sente figlio, si comporta anche molto da fratello, è un raf, è un maestro, quindi deve dare delle indicazioni, deve avere il coraggio di essere autorevole in certe cose, ma anche il coraggio di essere una persona che ascolta, che accoglie, che si confronta, che dialoga. E secondo me questo è un aspetto che va recuperato. Gesù che dialoga con l'emorroissa, con tante persone che sono ai margini, dialoga anche con quelli che sono incapaci di parlare, gli indemoniati, quelli che vivono nei cimiteri e così via, dialoga, non è soltanto uno che predica ma anche uno che sa ascoltare. Questo è un aspetto da sottolineare. Io credo che sia molto importante ricordarsi che ci sono delle incrostazioni sulla figura di Gesù, e spesso le incrostazioni diventano più importanti della sostanza. È curioso perché se voi guardate anche solo la Chiesa Cattolica, non tutto il panorama della galassia cristiana, ma all'interno della Chiesa Cattolica ci sono persone che danno molta importanza, che so, all'appartenenza ad un certo gruppo religioso che gli dà forza, che gli dà senso, magari che pretenderebbe, come dire, poter ritornare a una chiesa preconciliare dell'Anticano, no? Ci sono, come dire, quasi come se i dettagli diventassero più importanti. Nel Medioevo, per esempio, sappiamo, esistevano i domenicani e i francescani, in una situazione, come dire, abbastanza di antagonismo, no? Eppure erano gli stessi cattolici, dovevano essere, no? Ora, spesso il dettaglio trasforma la sostanza. Il dettaglio trasforma la sostanza. Mi ricordo quel film La notte di San Lorenzo, dove i bambini vanno a fare la comunione e stanno bombardando attorno, saltano, e c'è una bambina che guarda il compagno che ha fatto la comunione e gli dice: non si può masticare l'ostia, gli dice, no? Quasi come se quella fosse la cosa più importante. Ma guardate, sembra una cavolata. Sono andato su un sito di cattolici contemporanei e c'è un movimento per proibire che uno riceva la comunione sulla mano. Una bestialità, però si formano delle strutture di appartenenza su queste cavolate. Capite? Allora, Gesù sicuramente era un ebreo, questo bisogna ricordarlo. Era un ebreo. La seconda lettura che sarebbe dovuta dedicarsi a un episodio che un pochino scombussa, l'episodio del fico maledetto, viene da Giovanni Crisostomo. Giovanni Crisostomo, che scriveva delle cose molto importanti, aveva un'attitudine soprattutto pastorale, potremmo dire, ma ha scritto 8 omelie contro gli ebrei. E i nazisti erano felici che le avesse scritte. Non mai letto. Qualcuno sì. No. Allora la cosa curiosa è questa, state attenti. Gesù era un ebreo, stampiamocelo in testa. Il papà di Gesù, Giuseppe, non è mai morto cristiano. Stampiamocelo in testa. Lo zio Zaccaria, mai morto cristiano. Allora, facciamo attenzione. Ci sono delle etichette che sono stronze, finita la definizione grossa. La definizione grossa, perché servono a dividere le persone dalla realtà, dalla comprensione della realtà. E tutto sommato la comprensione della realtà parte dalla comprensione di noi, o comunque è circolare con la comprensione di noi. Se noi adesso incrociamo il grosso problema dei musulmani, della presenza musulmana qua, dove loro probabilmente hanno rispetto di Gesù e di Maria Vergine molto più di tanti altri cristiani, questo problema significa che dobbiamo conoscerli, ma per conoscere loro dobbiamo anche conoscere noi, e per conoscere noi dobbiamo un attimo mettere in discussione. Questo l'ha fatto. E su questo sono d'accordo, perché l'opera di Fabio è molto dialettica, quindi suscita, provoca e fa pensare e così via. Ci tengo però anche a dire che c'è bisogno di un surplus esegetico, perché ad esempio questa vicenda del fico seccato per noi teologi è deuterocanonica, cioè è evidente che essendo riportata soltanto da Marco, essendo l'unico miracolo negativo, odora più di apocrifi che di testi. Quindi noi oggi diciamo, dopo il Vaticano II, che la parola, la Sacra Scrittura contiene la parola di Dio, ma non bisogna prendere tutto Benissimo. Alla lettera, perché non è il Corano. Devo subito rispondere al teologo però anche. Sì. E cioè la questione è questa. Potrebbero essere tante altre questioni nel libro, per esempio quella riferita al problema del divorzio, che in realtà è collegata al problema del ripudio, ma che però per 2000 anni la Chiesa Cattolica e a tutt'oggi utilizza per il divorzio. E vi sollecito sulla questione andarvi a prendere il libro di Vito Mancuso, Io amo, dove lui in due paginette si sbarazza del problema del, un po' brutalmente, diciamo. Ma state attenti, è vero quello che lui dice, ma io nella terza parte, per quello invito tutti ad andare a leggersi, riporto il parere di John Meyer, che è uno dei grandi studiosi, quello che ha scritto quattro volumi, un ebreo marginale su Gesù, dove lui porta una serie di considerazioni. L'episodio del FIP è questo: Gesù un giorno esce, sta per andare a Gerusalemme, gli viene un po' fame, non c'era il cappuccino con il croissant, dà un'occhiata in un fico, non ci sono frutti, ci sono frutti. E allora dice, vabbè, tu sia maledetto. Poi vanno a Gerusalemme. Il giorno dopo i discepoli passano davanti al fico e Pietro dice, oh cavolo, guarda maestro, il fico che tu ieri hai maledetto è secco, completamente seccato. Dunque un miracolo alla rovescia, è vero, un po' come il bambino di prima che castigava quello che le aveva sbattuto contro. Ora però, state attenti, questo episodio c'è dentro nel Vangelo. Peggio ancora, il fico seccato è figura per alcuni esegeti fuori di testa, ma per 2000 anni è stato così, del popolo di Israele. E quindi il fico seccato è il popolo di Israele è maledetto. Attenzione, Auschwitz, l'abbiamo ricordato un mese fa. Quindi fate molta attenzione. C'è un libro molto bello, quando il Papa chiede scusa, fatto da Cattoli mi pare, Papa chiede scusa, beh, ce ne sono tante di scuse che il Papa, in particolare Papa Wojtyla, ha fatto, e una di queste è il nostro rapporto con gli ebrei. Cioè non è che così i pogrom russi, chiesa ortodossa, tanto santi, tanto mistici, e qui mi dispiace c'è anche dentro Dostoevskij, però tanto antisemiti. In questo caso gli ortodossi tutti d'accordo con i cattolici polacchi, antisemiti anche loro, cavolo, no? Allora, attenzione, perché le parole sono pietre certe volte. Non credo che Don Renner possa far togliere dal Vangelo di Marco l'episodio del fico, che, come dice Meyer, è un telogumenon, cioè una cosa inserita dopo, capite? Certo, questo è vero. Cioè, non quindi, è un episodio della vita di Gesù, non sono parole dette da Gesù. Certo, è stato però quante volte è stato letto in chiesa? Ma come capite? Dici bene, saper chiedere scusa è segno di intelligenza. Certo. C'è un'evoluzione nel mondo cristiano notevole, cioè noi non siamo rimasti all'esegesi di San Giovanni Crisostomo, c'è un'evoluzione, bisogna tenere conto di questa evoluzione perché è una dialettica che ha innestato Gesù stesso. Io purtroppo ho una conferenza a Naz, sopra Bressanone, alle 20, quando ho preso l'impegno della biblioteca, avevo già quest'altro, e quindi non posso stare a discutere ancora, anche se mi interesserebbe molto, lo inviteremo alla Biblioteca San Girolamo. Che io ringrazio, perché io... è una biblioteca che quasi nessuno conosce, eppure è una delle poche biblioteche solide. Specialistica. Cito un passo verso la fine del libro che è molto interessante. È strano che in tante immagini dedicate a Cristo Re si veda un Dio inutile seduto su un trono, a immagine e somiglianza di tanti inutili, sovrani e potenti terreni, anziché Gesù che lava i piedi. Su questo una società un po' cristiana avrebbe forse da riflettere, perché la regalità di Cristo sta nel servizio. Questa è una delle provocazioni che ho trovato più interessanti, che utilizzerò il Giovedì Santo alla lavanda dei piedi. Scusatemi, ma c'è un proporre una lettura, possiamo proporre quella che raccontavo di Crisostomo, di San Giovanni Crisostomo, che commenta in una sua omelia l'episodio del fico seccato, e la propongo come esempio di quello che non si deve fare, perché Giovanni Crisostomo, pur diventato santo, pur apprezzabile per tanti aspetti, appartiene alla schiera infinita degli apologeti che preferiscono far finta di niente, anche davanti alle espressioni o agli episodi che magari non sono particolarmente apprezzabili. Prego. Così commenta Giovanni Crisostomo: perché il fico fu maledetto? Per i discepoli, perché avessero fiducia. Poiché Gesù portava benefici ovunque e non aveva castigato nessuno, doveva dimostrare anche la sua facoltà di punire, affinché i discepoli e i giudei sapessero che, pur potendo distruggere coloro che lo avrebbero crocifisso, lo permetteva volontariamente e non li distruggeva. Non voleva però dare questa dimostrazione nei confronti degli uomini e la dette prova della sua forza punitiva verso quella pianta. Quando avviene qualcosa di simile nei confronti di luoghi o di piante o di esseri irrazionali, non guardare per il sottile e non dire: come è giusto che sia stato seccato il fico se non era stagione? Dire questo è estremamente sciocco. Guarda invece al prodigio, ammiralo e glorifica chi lo ha più compiuto. Se avete seguito il discorso di Crisostomo, è quello di dire: stai attento, sposta l'attenzione dal fatto in sé che abbia maledetto un fico che non dava frutti nel periodo in cui non ci potevano essere frutti, perché non era la stagione dei frutti. Il Vangelo è curioso perché riporta proprio questi dettagli, ma sposta l'attenzione sul miracolo, sul portento. Ebbene, io penso che questo sia proprio quello che non si deve fare. Cioè, se c'è un testo che ci mette in difficoltà, non dobbiamo uscire dalla porta di sicurezza e dire: ah, Dio può tutto, può anche fare delle cavolate. No, Dio non deve fare delle cavolate. Allora, questo libro che ho qui, Le parole dure di Gesù, è un libro scritto da un monaco della comunità di Bose, di Enzo Bianchi, quindi, come dire, molto doc, molto autorizzato a dire le cose, che raccoglie tutta una serie di situazioni spiacevoli, problematiche, e le raccoglie, diciamo, in linea, stando in linea, cioè in termini apologetici. Lui porta questo testo di Crisostomo e dice: però francamente questo testo di Crisostomo non ci piace tanto, perché è elusivo. Ecco il problema: essere elusivi non è mai una buona idea, bisogna andare diretti. Chi è che va diretto? Diretto va colui che veramente crede, non colui che ha paura. Ecco perché questo è un libro che non deve spaventare nessuno. E chi crede in che cosa crede? E chi crede in che cosa crede? Crede nel fatto che il bene funziona. Mi dispiace che Don Renner sia andato via, ma all'inizio del libro io ricordo la storia del paralitico calato giù. Quindi no, per me lì Gesù è simpaticissimo. Ricordo anche altri due miracoli che lui fa spostandosi, sempre circondato da questa gente. Uno è una donna che soffriva da 12 anni di un'emorragia. E secondo la mentalità, dite voi l'aggettivo che vi pare, secondo la mentalità di quel tempo era impura, perché perdeva sangue. Cosa vuol dire essere impura? Che nessuno può avvicinarti. Questa era la tragedia di questa donna. Oltre ad essere ammalata, aveva anche questa malattia sociale, questo stigma sociale. E questa donna disperata sa che lì sta passando una persona che è straordinaria, è una batteria vivente di energia. E allora che cosa fa? Ha un coraggio mostruoso, perché lei non può stare in mezzo alla gente, dovrebbe starsene lontana come una specie di lebbroso. E invece che cosa fa? Si butta e tocca il mantello di Gesù. Allora, ecco che l'energia di Gesù passa dentro di lei e lei viene guarita. Ma state attenti, Gesù si ferma un momento e dice: chi mi ha toccato? Scusate, mi devo alzare in piedi, non perché sono Gesù, ma perché è importante vederla questa scena. Gesù è incasinato da gente che lo tocca da tutte le parti. E a un certo punto qualcuno lo tocca. Allora qualcuno con l'intenzione di toccarlo. E Gesù sente questa fuoriuscita di energia. Forse qualcuno ricorda il film Il 13 miglia, come si chiamava, quello del condannato a morte di quel signore nero grosso che raccoglieva il miglio verde. Gesù sente questa, e qui abbiamo uno scatto di intelligenza di alcuni degli apostoli che gli dicono: cavolo, scusa maestro, sei tutto circondato da gente che ti tocca e adesso dici chi mi ha toccato? Chi mi ha toccato? Io voglio dirvi, fate attenzione, le narrazioni dei Vangeli sono bellissime, sono stupende, hanno una forza enorme anche narrativamente, ed è il motivo per cui non passano. Sono importanti, sono belle, ma dobbiamo soffermarci. Adesso io però vi faccio una domanda, ma poi arrivo all'altro discorso che mi interessa. La domanda è questa: questa donna che ha toccato Gesù, in cosa credeva? Perché Don Paolo è andato via, ma io le volevo metterlo con le mani, con le spalle al muro, lo farò se ci vediamo all'istituto. In cosa credeva? 1, 2, 3, affari vostri, chi è che risponde? Di essere guarita. Credeva forse in Gesù morto, risorto, asceso al Padre? Attenzione, fuori strada. Credeva nel bene. Credeva nel bene. Ecco che cosa è venuto a raccontare Gesù: la bellezza del bene, la bellezza di un Dio che è Padre misericordioso, che vi abbraccia, che vi stritola. Questo, io mi sento un prete a dire queste cose, ma non è così. Buttate via questa roba, tenetela. Però buttate via questa schedatura che abbiamo dentro di noi, per cui tutte le volte che leggiamo il Vangelo dobbiamo entrare in un luogo pieno di incenso. Non è così, è un patrimonio dell'umanità. Lo leggeva anche Gandhi, capite? Che non era cristiano. Lo leggevano altre persone che non sono mai diventate cristiane. Allora, la cosa bella di questa donna che non è cristiana è che crede nella forza del bene, che è una delle cose più semplici a cui crediamo tutti. Gesù poi va avanti. Gesù va avanti e veramente avrebbe dovuto dirgli delle cose a questa donna, perché poi la scopre e lei ha paura perché ha toccato Gesù. Non doveva, sarebbe punibile, capite? Gesù avrebbe dovuto dirle una cosa, ma il Vangelo non dice secondo i nostri pensieri. Una cosa avrebbe dovuto dirle: cara Juan, ci vediamo stasera dopo che io ho fatto quest'altro miracolo, andiamo a cena insieme. Avrebbe potuto dirle questo. Ok, non aveva tempo, andava di fretta, perché lui dice che invece era lento. No, andava di fretta Gesù. Leggetevi il Vangelo di Marco, andava di frettissima, doveva andare a fare un altro miracolo, ok? Avrebbe potuto dire però la sera a cena con qualcuno, quando lui alzava il dito, in verità vi dico, avrebbe potuto dire: oh ragazzi, svegliatevi con questa testa torpida. Quello che avete letto nel libro, il Levitico, che diceva questo, la Bibbia, è malato. Questa donna aveva solo una perdita di sangue, non era impura. Questo avrebbe dovuto dire Gesù, grande profeta, e non l'ha detto. Scusate, io gli sto dicendo: oh, ma tu pretendi troppo. Sì, pretendo. Pretendo da Gesù, perché avrebbe dovuto aggiungere: il corpo non è mai impuro. Questo avrebbe dovuto dire. Oh cavolo. E invece noi ci siamo trascinato dietro questa roba terribile per secoli e secoli. Con questo io torno a dire: Gesù è grandioso. Va con i suoi discepoli, perché era stato chiamato da Gairo, che era il capo della sinagoga di quel paese. La figlia di 12 anni era morta, stava per morire. Lui chiama Gesù: vieni, abbiamo fretta. Arriva nella casa, prima che arrivano della gente, dice: no, Gairo, lascia stare, la bambina è già morta. A parte il fatto che se io avessi una bambina di 12 anni che è già morta, mi porterei Gesù con tutte le sue capacità lo stesso, no? E Gesù prende 2 o 3 dei suoi discepoli, non dà spettacolo, e va nella casa e dice: non ti preoccupare Gairo, la bambina dorme. E quegli altri gli dicono: ma va là, dorme. so ben io se uno dorme o non dorme, no? Entra dentro e dice il Vangelo: cacciati via tutti gli altri. E qui c'è il professore di greco, ekbalon, mi pare ekbalé. Cacciati via tutti gli altri, entrò, va dalla bambina, la tocca e le dice quelle due parole che sono stampate dentro di noi, perché sono un groppo di emozione, talita cum, che sono due parole nel Vangelo di Marco, ogni tanto sbucano fuori queste parole in aramaico. E Gesù aveva la diglossia, parlava ebraico e parlava anche aramaico. Talita cum, alzati bambina. E la bambina si alza e Gesù dice: datele da mangiare e non dite niente a nessuno. E io mi soffermo su questo: cacciati fuori tutti gli altri, cacciati fuori. A me piace questo Gesù brusco, brusco. Non quei preti che vi danno la mano, che scivola, che sono tutti così. Scusate, brusco, è un uomo tosto. Attenti, c'è un antropologo che si chiama Franco La Cecla, che è un bravissimo personaggio, viene da Palermo, ha scritto un libro che si chiama Modi bruschi. I modi bruschi sono tipici dei maschi. Il maschio meridionale si identifica con certe capacità. Gesù era un maschio meridionale, era anche un mediterraneo, apparteneva a una cultura particolare, ma soprattutto è uno che distingue tra la vita e la morte. Perché queste persone che piangevano, luttuose, facevano un inno alla morte. E molto spesso da noi la religione è un inno alla morte, non alla vita, che invece è bella, è importante. È quella per cui Gesù è venuto, non la morte. Ecco, caccia fuori tutti ed è brusco. A me piacerebbe un prete che caccia fuori tutti e dice: qua c'è vita. Professore, devo fare il miracolo di fermarlo. Che è più una bestemmia, nel senso che fermare una passione così travolgente, però c'è una lunghezza fisiologica, diciamo, certo. E quindi avrete capito quanta passione c'è dentro questo libro. A questo punto direi che sarebbe interessante capire se da parte vostra c'è qualche domanda, qualcuno che magari ha già letto il libro, qualcuno che è interessato ad approfondire. No, ho letto il titolo, mi è sembrato negativo. No, non può essere un titolo negativo. Mi stavo un po' sulle scatole quel titolo. Veda lei, ho sentito adesso, lei è molto entusiasta, come lo dice anche l'ultimo, Gesù è brusco, si deve un po', lei trasmette molto bene un grande entusiasmo su tutto il discorso. Il libro poteva cambiare. Bisogna che un piccolo particolare. Il meridionale lo conoscevo molto bene. Ho sposato un meridionale e da allora ero una scema, perché sposavo una femmina. Forse non sì. No, lei ha ragione, soprattutto su questo secondo punto. Però l'analisi che fa questo antropologo è per dirci che gli uomini meridionali devono far emergere soprattutto la loro... Capito? E quelli della busteria ancora peggio magari, no? Ma sono su tirolesi meridionali anche loro. Allora, per questa cosa le do assolutamente ragione. La seconda cosa è che dovevo dire Gesù mi sta antipatico. Scusi solo un momento. Nel 2000 si è celebrato il Giubileo. È uscito una dichiarazione della Congregazione per la Fede, cioè Ratzinger. Il titolo era Dominus Iesus. Dominus Iesus. Che cosa fa Ratzinger nel 2000? Fa un'operazione molto intelligente, molto forte, richiama a raccolta tutta la Chiesa Cattolica e dice: noi siamo qui e resteremo qua. Sapete quei giocatori di rugby che vengono dalle isole, no, dalla Nuova Zelanda, uga uga, oh, oh, ah, ah, no? Lui fa così e dice proprio, utilizza subito una delle cose peggiori che si trova nel Vangelo di Marco, utilizza proprio come headline la frase importante: chiunque crederà e sarà battezzato sarà salvato, chi non crederà sarà condannato. Scusate, Osho diceva, citato da lui, ricordate, io ho citato a favore e contro. Beh, io mi rifiuto di credere in un Dio e soprattutto in un Gesù che dice: se tu non credi, subito ti mando all'inferno. Ma che? Getzwunder. Lui preferisce una fede basata sulla paura che una fede basata sul fatto che io vedo il bene e aderisco spontaneamente al bene perché lo amo. E naturalmente, seconda domanda, chi ha scritto questa frase terribile? Gesù o qualcuno che si preoccupava delle sorti della sua giovane comunità ecclesiale? Dovete entrare a forza dentro qui, fatevi battezzare, noi siamo i nuovi rabbini o i nuovi preti della sinagoga. Attenzione, c'è molto da discutere. Se io vado incontro ad un musulmano e gli dico: il mio Dio è il migliore di tutti, finito. E il tuo Maometto era... Cioè, scusa, come si fa a parlare con la gente? Ma seconda cosa, come faccio a parlare io con me stesso? Ma come faccio a parlare io con un signore che mi dice: piegati, se no non ti salvo? Allora io vi voglio ricordare che c'è una bellissima figura nella tradizione biblica ed è quella di Giobbe. Giobbe è stato pestato, è una favola, il diavolo va da Dio e dice: oh, tu dici che Giobbe è una brava persona che ti vuole molto bene, beh, togligli un po' di ricchezze e brum, spariscono i cammelli, le pecore, eccetera. E lui continua a pregare Dio: vabbè, ah, però toccalo nell'affetto, brum, uccisi i figli. Beh, è un Dio un po' sperimentale, comunque. Poi gli dice, subito arrivo, gli dice: beh, colpiscilo nella sua salute. E Giobbe diventa lebbroso. E a questo punto arrivano i buoni amici, Fasche Freunde, e arrivano i cattivi amici che gli dicono: beh, testa di cavolo Giobbe, chissà che puttanate hai fatto nella tua vita, Dio ti ha punito, la legge del karma, hai fatto una cosa sbagliata, Dio ti punisce. E Giobbe dice: no, cavolo, io non ho fatto niente. Ma va là, testone, magari se non l'hai fatto tu, l'ha fatto tuo papà o tuo zio. Allora, attenzione, Giobbe lì protesta. Questa è la figura del credente. Uno che non fa sconti a Dio, che non ha paura di Dio, che non è un cortigiano di Dio, non è un servitore di Dio, ma è uno che lo guarda e fa un cammino. Questo è il credente. O perlomeno un uomo. Quindi la risposta alla domanda del Signore è: questo titolo serviva per, come stimolo. Cioè, mi piace, è provocatorio, mi piace molto il titolo. Qualche altra domanda? Prego. Non sarei venuta se non mi fosse. Anch'io. C'è una domanda? Io ho fatto le marce di Gesù. Dice: tu hai la madre di Gesù. Per noi è sempre stata una persona amata e così siamo stati buttati. E allora però più avanti, leggendo il Vangelo che io leggo spesso, che ho sempre letto, c'è quella scena nella nozze di Cana che si dice, a un certo momento dice la madre di Gesù, ecco, non c'è più vino, è andato venuto a mancare il vino, quello lo devi rispondere. Tacci donna, per favore, il mio giorno di momento non è ancora venuto. Questo ai nostri orecchi suona molto duro, no? Tacci donna, perché se penso a me stessa, no, che io non avrei mai osato dire a mia madre come mi chiederò per qualcosa. Tacci donna. E ci sono queste immagini che Dio anche molto dure dai racconti giusti, che mi hanno fatto sempre pensare, no? Come, non so, si scandalizza il bambino a meglio che diceva di fare qualcosa e di una condanna terribile e tanti così c'è così o i genitori scacciati a dentro, non siamo stati abituati a vedere un questo vittima e però un giudice invece da amare e comunque queste riflessioni penso che più o meno tutti noi le abbiamo fatte, cioè qui mi sembra strano che Gesù sia così bosco, no? Mi sembra strano, no? Beh, c'è una tradizione lunghissima. Intanto bisogna sempre ricordare che sia il cristianesimo che l'ebraismo, da cui proviene direttamente il cristianesimo, non sono la prima esperienza religiosa. Le esperienze religiose più forti vengono dall'Oriente, vengono dalla Persia e vengono dall'India, dall'India che è il crogiolo di molti aspetti della nostra civiltà. L'idea del karma è l'idea che se tu fai nella tua vita dei passi falsi, commetti degli errori, in qualche modo li pagherai. E uno dei modi per pagarli ovviamente è la malattia, ma nella tradizione ebraica e non solo, gli errori potevano essere commessi anche dai padri. Se per esempio uno nasceva cieco, che cavolo aveva fatto? Mica aveva fatto a tempo a fare degli grandi errori, allora magari è stato il padre o la madre. Ora, questa è una spiegazione, come dire, che può funzionare, ma in realtà è una non spiegazione, sappiamo benissimo. Il nostro mondo è pieno di non spiegazioni, no? Chiedete a uno perché ha vinto la Juve l'altro giorno, sono tutte non spiegazioni. Potrebbe essere semplicemente perché ha avuto fortuna o perché l'arbitro ha chiuso un occhio. Noi siamo pieni di non spiegazioni e il nostro compito in realtà è quello di pulire. Quando nel Vangelo si dice che arriverà qualcuno che separerà la pula dal grano, è una bella idea, ma in realtà dobbiamo farlo noi, perché questo è un nostro dovere. Siamo noi che dobbiamo cercare giustizia e verità, non nel futuro lontano di Marte e di chissà dove. E quindi il Vangelo, quando funziona bene, funziona per aiutarci a superare dei pregiudizi, e Gesù ha dovuto combattere tantissimo sui pregiudizi del suo ambiente. Anche quando arrivano i suoi parenti e lo vedono così un po' agitato, cosa dicono agli altri? Vabbè, non è in sé, è un po' fuori di testa. Pensate, il Vangelo riporta questa frase, no? A quei parenti Gesù stava un po' sulle scatole perché portava disonore alla famiglia. E gli altri, nella scena successiva, arrivano e gli dicono: ci sono i tuoi parenti, c'è anche tua madre. E Gesù dice: ma i miei parenti e mia madre sono questi, quelli che fanno la volontà di Dio, non la mia, la volontà di Dio. Anche questo. Sulla teologia cristiana naturalmente ci sarebbero moltissime cose da discutere, ma va bene così, un pezzettino alla volta, se no si muore. Va bene.